Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Amici di Blu Radio Veneto, un'altra puntata insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi nuovamente un saluto al presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo nella grande epoca delle comunicazioni, delle telecomunicazioni, delle radiocomunicazioni e quindi andiamo a toccare un argomento che riguarda la telefonia. Perché? Perché le cose stanno un po' cambiando anche nelle abitudini degli italiani. Sì Francesco, andiamo a commentare quelli che sono un po' i dati dell'Agicom diffusi un po' di tempo fa, proprio come dici tu, le persone in un momento di crisi in cui comunque cercano di risparmiare un po' quelli che sono anche dei costi, io dico accessori rispetto alla vita routinaria, notiamo come c'è stato un crollo dei numeri fissi di domestiche da casa e conseguentemente un crollo anche degli SMS rispetto a quello che erano i dati di qualche anno fa. Sono molte le persone che decidono di abbandonare il costo del telefono fisso e dedicarsi totalmente a quello che è ormai un vero computer palmare come lo smartphone. Guarda, io voglio dare qualche dato giusto per dare significato a questo trend, a questa tendenza che le famiglie sempre più comunemente ormai stanno adottando. Per esempio le linee fisse per la prima volta da giugno dell'anno scorso sono sotto i 21 milioni, quindi c'è stato un calo nell'ultimo anno di 560 mila linee e addirittura di 1,5 milioni da giugno 2012, ma credo che comunque chiunque di noi possa vedere come anche l'elenco telefonico a parte il registro delle posizioni si sta comunque assottigliando sempre più rispetto a qualche anno fa. Poi per quanto riguarda gli SMS, addirittura c'è stata una flessione del 42% della messaggistica rispetto sempre allo stesso periodo preso in esame, quindi certamente due dati che fanno capire come le persone e come l'avvento dei smartphone e della connessione internet stanno modificando le nostre abitudini, ma certamente volte a risparmiare quei che sono dei soldini che ogni mese le famiglie hanno abituato a tirar fuori. Esattamente, un po' di soldi che si possono risparmiare, il tutto facendo un po' attenzione a scegliere magari il piano giusto, quello che va meglio per l'utilizzo personale o della famiglia, insomma, attraverso i cellulari. E poi ci sono questi nuovi programmini, queste nuove app, diciamo, che ti permettono di mandare attraverso la rete di internet tutta una serie di messaggini che sono leggermente diversi dal vecchio SMS, ma comunque altrettanto veloci ed efficaci. Sì, certamente oggi ci sono dei piani tariffari veramente convenienti rispetto a una volta dove c'era un traffico dati che proponeva dei costi sugli scatti o sul tempo effettivo in cui le persone conversavano. Basti pensare che chiunque di noi una volta pagava il fisso, poi aveva queste SIM ricaricabili, magari bastava avere anche due o tre telefoni tra moglie e marito e telefono fisso, che poi con il telefono fisso diventava improponibile chiamare i cellulari eccetera. Oggi diciamo che quasi con il costo di una ricaricabile si riesce ad avere un po' in gestione tutto e addirittura un apparecchio incomodato d'uso, cosa e scelte che le persone sempre più frequentemente oggi stanno adottando, cioè non si acquistano più il cellulare, non comprano più le ricaricabili, ma si fanno un piccolo contratto o hanno addirittura un fisso mensile, non so, di tot euro, che si dà i 400 minuti anziché i 200 o i 600, i giga per navigare e via dicendo. Chiaramente tutti strumenti che diventano anche utili per navigare su Facebook, su WhatsApp e quindi chiaramente non si mandano più messaggi che una volta avevano anche questo un costo e si cerca anche di non quindi di tagliare quelli che erano quei costi di 50-60 euro al mese che molte famiglie arrivavano a spendere anche per avere una connessione internet oltre al noleggio degli apparecchi e il costo delle linee quindi un risparmio che certamente insomma può anche arrivare a 500-600 euro l'anno. Ecco Carlo, allora il consiglio che vogliamo dare in qualche modo è: verificate bene quali sono le vostre spese del telefono fisso, dei vostri cellulari, e guardatevi attorno, perché c'è la possibilità, come hanno fatto già un bel po' di italiani, come dicevi tu, addirittura 21 milioni in meno di numeri di telefonia fissa. C'è da pensare se è il caso magari di abbandonare il telefono fisso per dedicarsi solamente ad avere i numeri personali del cellulare. Sì, ecco, un consiglio che voglio dare io, Francesco, è che le persone sempre più spesso si rivolgono all'Andico chiedendo la convenienza di un operatore e di un piano tariffario rispetto a un altro. Io oggi dico, cercate di valutare il piano tariffario in base a quelle che sono le vostre esigenze, perché non esiste un piano tariffario più conveniente rispetto a un altro, ma esistono dei piani tariffari che propongono qualcosa di diverso ciascuno rispetto all'altro. Bisogna avere la pazienza di individuare quello che è più attinente alle nostre esigenze, perché poi se abbiamo 400 minuti di traffico e spendiamo per esempio 15 euro al mese, ma sappiamo che 400 minuti noi non riusciamo a gestirli perché ne facciamo 600, è chiaro che dopo i costi al scatto e al traffico possono far erodere tutto quello che poteva essere un risparmio rispetto a un telefono fisso. Quindi molta tranquillità, molta pazienza, ma soprattutto ecco, a confrontare tutte quelle che sono le opportunità che il mercato, insomma, almeno nell'ambito della telefonia mobile, ancora propone. Certamente, un po' di economia telefonica e di attenzione, e poi ci sono anche delle belle soddisfazioni a livello di risparmio. Questo era l'argomento di oggi, la prossima settimana nuovamente insieme con l'ADICO, Associazione Difesa Consumatori di Mestre, grazie nuovamente al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.